Router is the name of the program. And the purpose of a router is to take your connection and split it off to multiple computers. Buonasera, benvenuti, siamo su Router, come tutti i lunedì dalle 8 alle 9 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questa sera siamo, come abbiamo come ospiti i ragazzi della Terra Trema, che salutiamo. Abbiamo qua in studio Paolo e Zuzza. Ciao. Ciao a tutti. C'è sempre anche la Fra in regia. Ciao. E niente, siamo qua con loro come ospiti perché questa settimana si terrà a Leoncavallo di Milano la Terra Trema, tre giorni, diciamo che è l'evento più importante di tutto il percorso che c'è durante, che si sviluppa durante tutto l'anno, fa parte appunto di tutta la Terra Trema, perché non è che sia solo questi tre giorni. E siamo qua appunto con loro per chiedergli, partiamo da che cos'è la Terra Trema, visto che comunque con voi ne abbiamo già parlato al telefono, però ora avervi in studio magari possiamo anche approfondire un pochino di più e raccontarci anche da dove venite, cos'è, qual è la storia. Voi fate parte del Folletto, no? Sì, domandone. Solito domandone. Solito domandone. No, la Terra Trema è un percorso lungo che ci porta per la quinta volta a Leoncavallo come Terra Trema, ma la Terra Trema nasce, diciamo così, l'evoluzione, una delle evoluzioni di quello che fu Critical Wine, insomma, quindi il lavoro fatto da Veronelli con alcuni centri sociali metropolitani sparsi un po' per tutta Italia, dal Forte Predestino a Roma, a Leoncavallo, a Milano, la Chimica a Verona, il Magazzino 47 a Brescia e il Folletto 25603 ad Abbiate Grasso. Quando abbiamo incrociato Critical Wine, noi stavamo già lavorando sul discorso dell'agricoltura, sui temi del territorio con gli agricoltori del nostro territorio, e quindi da lì poi abbiamo sviluppato il lavoro sia con i vignaioli e con gli agricoltori. Adesso ci troviamo qua quest'anno, se avessimo avuto il doppio dello spazio, se Leoncavallo fosse stato il doppio, avremmo accolto il doppio dei produttori, perché veramente siamo arrivati a tutti, c'hanno persone da tutta Italia, agricoltori, resistenti, partigiani, piccoli produttori che fanno un lavoro di qualità e anche di resistenza, di attenzione verso il proprio lavoro e verso i propri territori, non vogliono mancare a questo appuntamento che è diventato una carica simbolica forte, insomma. Importante, perché voi infatti siete anche di Abbiate Grasso, no? C'è lo spazio Folletto di Abbiate Grasso, quindi c'è anche un rapporto proprio diretto, anche, cioè non tanto perché siete di Abbiate Grasso c'è un rapporto diretto sul territorio, ma avete anche un importante, insomma. Sì, noi seguito, appunto il lavoro è quello, cioè nel senso, noi siamo da 10 anni in questo piccolo spazio occupato ad Abbiate Grasso, che nasce guardando quella che è la storia e l'esperienza dei centri sociali metropolitani, con quel tipo di attitudine, di sguardo storico e di balzo in avanti, però anche con una forte connotazione territoriale, che è quella appunto di stare in un territorio tra due parchi, tra il Parco Agricolo Sud Milano, il Parco del Ticino, un territorio a vocazione agricola, e quindi è stato quasi naturale per noi a un certo punto occuparci di agricoltura, di temi di questo genere. Molti di noi hanno parenti o radici in agricoltura, qualcuno di noi è ancora agricoltore tutt'oggi, quindi questi temi insomma in qualche modo ci hanno, quindi abbiamo unito queste doppie attitudini, insomma. Ottimo. Zuzza, hai da dirci qualcosa anche tu riguardo territorio, Folletto, Terra Trema? No, sicuramente che appunto è un territorio anche con queste origini qua, che ha appena descritto Paolo bene, ma anche alla fine in forte trasformazione, infatti sentiamo anche molto forte appunto la pressione sia della città che delle infrastrutture possibili o anche che molto reali, che si possono, possono esserci sul nostro territorio, progetti futuri che sono in via di costruzione o che a breve potrebbero essere costruiti, e anche in quest'ottica qua anche un altro sguardo era come all'inizio era nato, appunto, di opporsi a questi progetti infrastrutturali faraonici che occupano il suolo agricolo e trasformano proprio tutto quello che ci sta intorno. Era anche un modo, appunto, per salvaguardare questi agricoltori, opporsi a questi progetti. E la Terra Trema, in ottica positiva, invece propone, appunto, di valorizzarli, questi agricoltori, valorizzare queste piccole esperienze che ci sono, che tendono, appunto, di produrre dei prodotti, anche cercando di trasformarli, commercializzandoli. Quindi un po' quello che vogliamo fare, anche un po', appunto, dare voce e supportare queste esperienze che per noi ci pagano fondamentali. Ed è una cosa positiva il fatto che tanti agricoltori, non tantissimi, però comunque significativi, cioè un numero significativo di agricoltori che ogni anno sempre di più, o perché appena nati e chiedono di partecipare perché interessati al progetto della Terra Trema e alle possibilità che evidentemente dà, o anche invece agricoltori o vignaioli che invece magari più storici, che però, appunto, cambiano e tendono a cambiare percorso, quindi magari tendono, appunto, a trasformare e a commercializzare i propri prodotti e sono incuriositi della Terra Trema, appunto, per queste ragioni qua, perché comunque non è che tendiamo anche molto tendiamo semplicemente a dargli spazio e dare a loro delle possibilità che dovrebbero avere. Perché poi non è una fiera di quelle classiche che noi conosciamo, la Terra Trema, cioè come potrebbe essere Vinitaly. In teoria dovrebbe essere la fiera più classica, ovvero semplicemente dare spazio a chi lavora direttamente nella terra e propone quello che fa e si racconta, no? Poi in verità, appunto, tante altre fiere non sono così, sono i commercianti. No, e dopodiché diventa una delle serate più importanti per il pubblico milanese, cioè almeno personalmente ci sono da 5 anni ed è una delle serate più attese dell'anno, sappiatelo. Così. Sì, sicuramente anche bella. Minimo di feedback. Una cosa che ci piace anche lasciare, che è bella, che viene a Terra Trema, è anche quest'area un po', appunto, festosa, no? Questo miscuglio tra temi molto importanti e seri riguardante, appunto, la trasformazione del nostro territorio e l'agricoltura, ma anche, appunto, lasciare, appunto, la spontaneità degli assaggi, delle relazioni che avvengono in quei giorni, e, appunto, l'area di festa anche, no? E soprattutto anche aprire questo mondo anche a persone che magari, appunto, non lo conoscono, quindi ogni anno si impara qualcosa di nuovo, insomma, è comunque un'occasione particolare in tutti i sensi, non è né una cosa semplicemente divertente né una cosa semplicemente intelligente. È nello spirito delle vere vecchie fiere agricole, cioè che era un dovrebbero momento essere tutte così, che erano un momento di festa, ma anche un momento per portare i propri prodotti, per commercializzare i propri prodotti. Quindi penso che in questo senso la Terra Trema raccolga, perché è anche importante, poi soprattutto in città, insomma, è anche lo scambio, infatti, che si ha anche con chi viene proprio a proporre, certo, i propri prodotti, perché c'è anche un po' quello che stavo dicendo, che non è una fiera classica dove vai, cioè, giacca e cravatta, cioè, infatti al giorno era d'oggi un po' quello, anche sì, se sì, era sì. Vabbè, io farei sentire un brano di Kazuma, che, vabbè, poi ci racconteranno anche cosa ci sarà in questi 3 giorni. Kazuma. Thank you. giorni nostri. Un movimento sempre più crescente di agricoltori sta per raggiungere la metropoli. Lungo il percorso risuonano le grida di battaglia. Lo scontro è iniziato, stiamo pronti a coglierne i frutti. In alto i calici, partecipiamo alla lotta. 25, 26, 27 novembre, la terra trema. La fiera dell'enogastronomia eversiva per la quinta edizione torna al Leoncavallo di Milano. Vini vignaioli autentici, degustazioni guidate, cena filiera zero, concerti. Venerdì sabato dalle 15 alle 22, domenica dalle 13 alle 20. Laterratrema.org. Bentornati a Router, router-radio.blogspot.com, Router su Facebook, oppure per scriverci router.radio@gmail.com. Ripasso la parola a Kenny, stiamo parlando con Zuzza e Paolo della Terra Trema. Ecco, torniamo in onda e stavamo appunto, abbiamo finito di parlare insomma di quello che è il progetto Terra Trema, come è nato, le persone che partecipano al progetto, tra Folletto, appunto, il Leoncavallo e tanti altri aiuti di realtà. E abbiamo sentito anche lo spot dopo il pezzo di Kazuma, che appunto ci sarà sabato sera, anzi venerdì sera, al Leoncavallo dopo il concerto dei Mombo. Ma preferirei passare la parola a voi per spiegare tutto il programma, tutta la tre giorni, che cosa succederà, chi ci sarà. Bene definito il programma. Allora, la Terra Trema sarà da venerdì 25 a domenica 27 novembre. È aperto venerdì le degustazioni, gli assaggi che si possono fare liberamente attraverso appunto gli stand con i vignaioli, gli agricoltori presenti. Avvengono dalle 15 alle 22 per il venerdì e sabato e dalle 13 alle 20 per la domenica. E poi all'interno di questi tre giorni ci sono anche degli incontri ad hoc oltre ai concerti. Per esempio venerdì 25 alle ore 18 c'è una degustazione e un racconto di Giacomo Ruio della Valle Intelvi nel Comasco, nelle valli comasche. Sul suo lavoro, su quello che fa, lui è un pastore, alleva capre di una razza autoctona che da pochi anni sta venendo rivalorizzata, che è la nera di Verzasca. Lui alleva queste capre su in montagna, proprio in alpeggio, e fa anche dei formaggi. Fa dei formaggi particolari in modo proprio molto, molto artigianale, e consiglio anche di andare a trovarlo perché è veramente un posto fantastico. Al venerdì di concerti ci sarà Mombu, un duo che arriva un po' dall'esperienza degli Zoo, e dopo il Mombu suonerà Kazuma, che avete appunto appena sentito, che arriva dall'esperienza di Deda, dei Sangue Misto. E adesso ho questo progetto qua da qualche anno che sfocia un po' nelle origini del funk, del soul, della disco, molto ballabile e carino se avete ascoltato bene. Al sabato abbiamo alle ore 17 una degustazione tenuta da Gigi Brozzone, che interloquirà anche con noi in merito a un argomento su cui ci siamo già spesi quest'estate al Folletto, ovvero il tema del gusto nel mondo del vino, ma che è anche molto similare anche ad altre materie prime. Faranno degustazione facendo assaggiare quattro vini completamente diversi, tra cui uno definito contadino, artigianale, un vino invece derivato da una forte ricerca enologica e tecnologica, un vino con una tecnica di vinificazione particolare, ovvero con una macerazione lunga sulle bucce, e un vino invece di produzione semi-industriale, quindi con la produzione di un gran numero di bottiglie. Tutti questi vini, eccetto l'ultimo, sono di produttori presenti alla Terra Trema, quindi appunto potete anche assaggiarli durante tutti e tre i giorni. E questo tema qua ci è abbastanza caro perché ci permette un po' di uscire dai soliti cliché dati dalle solite parole chiave date dai sommelier, che un po' non ci appartengono, nel senso che a noi ci piace più lasciare che ognuno si faccia il proprio percorso personale rispetto al gusto. e un po' invece per creare un po' una coscienza rispetto a quello che indipendentemente da noi succede nel mondo commerciale, ovvero dai, come nel mondo industriale certi gusti, certi sapori vengono artefatti e ricreati proprio per assecondare certi i gusti del mercato, insomma, quindi dati da una da leggi al di là della personalità, ma appunto da leggi solo mercantili. Sì, rispetto a questa cosa è divertente il fatto che l'incontro è tenuto da Gigi Brozzoni, che è comunque una persona riconosciuta a livello nazionale e internazionale nel mondo del vino, è colui che segue, che fa le degustazioni della guida Veronelli, quindi la prima guida in Italia che si occupava di vini insieme a Veronelli, che dà dei punteggi, che fa un'analisi molto tecnica e ricercata. Lui è veramente una persona che in qualche modo ci ha anche aiutato ad assimilare competenze, però si rifà a uno sguardo, diciamo così, tradizionale rispetto al mondo del vino. È interessante il fatto che uno interloquisce con noi, due che viene alla Terra Trema, e tre il fatto che comunque dentro lì poi ci sono dei vini e dei vignaioli che sono arrivati magari alla Terra Trema la prima volta come perfetti sconosciuti, come delle persone che portavano un modo di produzione completamente nuovo, che poi sono diventati dei punti di riferimento e dei vini quotatissimi, stellati. Mi ricordo un certo Gravner che quando frequentava il Fu Critical Wine era in qualche modo bistrattato da tutti, visto come un personaggio bizzarro, dopodiché nel tempo si è avuto riconoscimenti e in qualche modo è stato un riferimento per altri. Quindi dentro lì ci giochiamo questa cosa qua, che anche noi in qualche modo, come Terra Trema, come percorso individuale, abbiamo dato degli input diversi rispetto al modo di guardare il gusto, il mondo del vino, no? Anche il discorso dello status symbol, dell'accesso a un prodotto di qualità, di come era il vino, era impensabile 10 anni fa immaginare che in un centro sociale con una storia come quella del Leoncavallo, un gruppo come il Folletto diventasse riferimento per il mondo del vino e per l'agricoltura. Quindi ecco, questa è una piccola scossa che abbiamo dato, così ci tenevo a dire questa roba. Beh, fondamentale direi. Sì, cioè... sì, no, assolutamente. L'incontro è alle ore 17 di sabato 26 novembre, il titolo è Vino Vini, Gusto Gusti. Poi alle ore 18 invece, sempre di sabato, cioè portiamo qua a Leo un'esperienza che abbiamo incontrato direttamente su nella Val di Susa, quando siamo andati su più volte durante quest'anno, questi anni di lotta. Abbiamo conosciuto Andrea Turio della cooperativa Clarea e era un esempio di agricoltura di resistenza, nel senso che in questo caso è proprio una resistenza anche molto fisica. Infatti i suoi vigneti sono maggior parte dei suoi vigneti sono inclusi proprio nel cantiere, nel non cantiere anzi, della Maddalena. E verrà qua a portare il suo racconto, a far assaggiare i suoi vini, a raccontare anche un po' la situazione che lui o gli agricoltori della zona si vivono, e le problematicità legate appunto a questo, alla presenza di questo, alla sola presenza di questo non cantiere, che gli permette di non lavorare, di non andare avanti, di non poter curarsi delle loro piante fondamentalmente. E ci sarà anche Ludovico di Comitatino Tav per portare invece tutta l'altra parte di esperienze di lotta che viene quotidianamente invece in Val Susa. Sì, era interessante secondo me raccontare in che condizione poi si è ritrovato a fare la vendemmia quest'anno queste persone, perché appunto, come diceva Zuzza, le sue vigne sono proprio all'interno della recinzione del cantiere non cantiere, e per accedere a controllare i suoi vigneti, per accedere per raccogliere le sue uve, ci sono dei veri e propri checkpoint, una serie di trafile, di permessi per accedere a fare il suo lavoro, e tra l'altro hanno dovuto anche portare le loro uve ad analizzare, perché quest'estate quelle zone lì è stata veramente oggetto di un lancio allucinante di lacrimogeni. Fortunatamente sono andati comunque in vendemmia, però appunto ci porterà questa testimonianza che secondo me è significativa e forse anche estrema. L'incontro più importante anche del perché forse è anche uno degli episodi che riguardano il territorio più importanti di quest'anno, certo, che certo. Ha segnato un po' anche la storia La storia della Valsusa. Penso che rispetto ai temi che della terra trema è emblematica di tutta una serie di cose, e questa delle vigne ancora di più, nel senso che comunque è veramente pazzesco la situazione. Allora, io fermerei un attimo tutto il programma della tre giorni di Terra Trema, lancerei un pezzo anticipando poi la domenica, perché ci saranno poi Sacchi Sed, come dopo ci dirà. Anzi no, volevamo finire con i concerti di sabato magari, finiamo con i concerti di sabato, forse è meglio, dai. Sì, dai, finiamo con i concerti di sabato, almeno chiudiamo la giornata. Giusto. E poi dopo è vero, la fase divertente della giornata. Arriviamo alla fase. Alla sera i concerti ci sarà Egre Somakal, che farà è un chitarrista compositore, chitarrista di massimo volume, ha suonato nel massimo volume, suonerà con dei fiati, inizierà il concerto alle ore 22. Poi ci saranno i Bellini, che è un quartetto metà siciliano metà americano, bello ritmico e aggressivo, molto interessante insomma nella scena alternativa. E a chiudere la serata ci sarà Paolo Minella con la sua disco dancehall Deep House, per chiudere in bellezza il sabato sera, il nostro sabato del villaggio. Concedetemi una battuta, che c'è una programmazione veramente all'insegna degli anni 90, nel senso che abbiamo dai Sangue Misto ai Massimo Volume agli Uzeda gli Zu, non so, potrebbero a cavallo. E vabbè, per poi arrivare alla domenica con i più giovani, in effetti, che vi ha recuperato poi sul finale. Va bene, che lanciamo tra le altre cose Sacchi Sed, Bacco, che non poteva che starci meglio. torniamo in onda. Questi erano i Sacchi Sed con Bacco. E siamo sempre in onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, 98.00 su Milano, 90, 96 e 60 su Brescia. Oh, ok. E, niente, siamo sempre in onda su, siamo sempre in onda con i ragazzi della Terra Trema, Paolo e Zuzza. Perché ci siamo dimenticati tra le altre cose di dare contatti, che segnaliamo il sito www.laterratrema.org, giusto? Per tutte le informazioni, ci potete tornare lì a guardare tutto il programma della Tre Giorni. E noi eravamo rimasti appunto, avete esposto benissimo il programma del venerdì e del sabato, ci manca la domenica. Sì, allora i Sacchi Sed che abbiamo appena sentito suoneranno domenica sera verso le 9:30, anche 10. E durante però la giornata... suonano presto, domenica sì, suonano prestissimo perché sarà la chiusura proprio della Tre Giorni, saremo quindi stanchi. Esatto, saremo stanchi e sarà la degna chiusura però dei Tre Giorni. Al pomeriggio ci sarà alle 16 un laboratorio per bambini di cucina creativa, a cui la partecipazione è gratuita, però bisogna iscriversi. Se andate sul sito della Terra Trema trovate tutte le informazioni per iscrivere i bambini. Alle 19 invece ci sarà una videoproiezione con una chiacchierata di Genuino Clandestino, Movimento di Resistenze Contadine, che è un progetto nazionale che vede di analizzare un po' le tematiche legate agli agricoltori artigiani, i cosiddetti neorurali, che hanno grosse problematiche a livello legislativo proprio con le normative a livello soprattutto di sanità dell'ASL, l'HCCP, e quindi stanno facendo delle proposte appunto per far sì che questi produttori possano semplicemente produrre, trasformare e commercializzare i propri prodotti, che invece sarebbe troppo oneroso. Alle 20 c'è la premiazione della Roncola d'Oro, perché ogni partecipante alla Terra Trema è in concorso appunto per vincere la Roncola d'Oro, che viene premiata direttamente da chi attraverserà i Tre Giorni della Terra Trema. Ricordiamo infine che tutti e tre i giorni è possibile cenare nella cucina di Loncavallo, con prodotti che arrivano direttamente dai produttori che partecipano al progetto, con delle cene speciali. Sul sito www.laterratrema.org ci sono anche i menù. Quindi sceglietevi voi quello che ci sono anche i pranzi piace. Quest'anno rispetto anche a domenica c'è il pranzo. Benissimo. E niente, a questo punto abbiamo detto tutto. Ripetiamo dall'inizio: 25, 26, 27 la Terra Trema al Leoncavallo, ingresso, sottoscrizione al progetto, non l'abbiamo detto, che sarà 8 euro al giorno con calice da degustazione, per gli assaggi, un catalogo con tutte le presenze, viene in degustazione, il programma, catalogo, foglio, quest'anno la sì, prima... Esatto, abbiamo inserito dei racconti, delle cose che abbiamo scritto in questo durante punto, l'anno per... durante l'anno, proprio per rendere un po', per far dare un po' un ritorno. No, più che altro anche per rendere il fatto che la Terra Trema non si consuma in questi tre giorni, ma è un percorso che dura tutto l'anno. Questi tre giorni ci consumiamo noi. Esatto, è il momento per consumarsi. Per cui a questo punto lancerei i Mombu, che appunto ripetiamo suoneranno venerdì sera. Dopodiché torniamo in linea con un paio di sorprese. We'll be right back. Torniamo in diretta, siamo sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, siamo sempre in compagnia dei ragazzi della Terra Trema che si terrà questo weekend al Leoncavallo di Milano e abbiamo anche però al telefono Sandro che di Cascina Cirenaica che vi passo gentilmente la parola così potete dialogare direttamente con lui. Sandro, ci sei? Sì, ciao a tutti. Ciao, siamo qua io Zuzza. E... ciao Sandro. Ciao bello. Come va? Benino, benino, un po' di influenza però bene, andiamo bene. Ma lì com'è la situazione in Cascina da te? Siamo un po' in ritardo con la semina del pisello che abbiamo appena finito il pisello proteico in seminario, non riusciamo a rullarlo perché il terreno è umido, poi per il resto bene, i maiali crescono e facciamo i salami. Tu li dai poi... tutti cos'è che gli dai ai maiali per farli crescere così rapidamente, Sandro? Dice la verità, eh? Beh, sai, io gli do un euro al giorno e gli dico di andare a loro a mangiare, ma non lo so cosa devo fare! No, allora, non crescono velocemente da noi, anzi, hanno bisogno di qualche settimana in più del normale, perché è proprio il nostro concetto di alimentazione, collegato proprio ai cereali che noi coltiviamo nel nostro terreno, è proprio la logica di che non spingiamo. Difatti molti anni fa quando abbiamo come introdotto i concetti qua dell'agricoltura integrata e l'allevamento i cosiddetti five freedom nell'allevamento abbiamo modificato un pochino le razioni e all'epoca tra l'altro non c'erano delle grossi studi e da parte dei produttori di integratori, cioè minerali, andavano un pochino in crisi quando noi gli chiedevamo il discorso degli OGM free, niente auxinici, niente promotore di crescita, il problema delle farine di carne, di pesce, che okay, senza quello, l'integrazione deve essere bilanciata sulle necessità alimentari loro, effettivamente questi andavano un pochino nel pallone, però piano piano abbiamo sistemato un po' le razioni e attualmente mangiano quasi tutta la nostra produzione, acquistiamo un pochino di crusche di frumento, un pochino di farina di soia, naturalmente tutte rigorosamente OGM free e un pochino di sale minerale. Sandro, non hai detto dove sei? Dove... Noi siamo a Robecchetto con Induno, il comune, in provincia di Milano Ovest, nel Parco del Ticino, siamo un'azienda a marchio Parco Ticino, agricoltura integrata e ecocompatibile, coltiviamo 30 ettari di terreno tra mais, frumento, anche quello da panificazione, del pisello proteico, erba medica e beh, poi abbiamo un po' di boschi, un po' di siepi, naturalmente tutti i terreni sono contornati da siepi filari proprio per la biodiversità. Ti faccio due domande veloci perché il tempo stringe. Uno, appunto, questi bei maiali che allevi, che fine fanno? Noi abbiamo un'azienda, all'interno dell'azienda abbiamo un piccolo somificio con un piccolo macello, per cui macelliamo noi direttamente, per cui anche lo stress del trasporto non c'è, perché proprio siamo vicinissimi all'allevamento, li macelliamo e trasformiamo. Nel nostro piccolo somificio manteniamo anche qui dei concetti di buon alimento, per cui niente additivi, né di lattosi, né i cosiddetti allergeni, non ne usiamo neanche uno, facciamo una media lunga stagionatura del salumi e li vendiamo. Che sono buonissimi, io assicuro, alla grande, e anche qua quelli del Leo. No, dici anche magari... No, appunto, questo io volevo, cioè, che raccontavi un po', appunto, come hai incontrato la Terra Trema e tutto invece il percorso che ti ha portato ormai a portare i tuoi prodotti quasi quotidianamente, settimanalmente, per la cucina del Leo, facendo felici un sacco di baldi giovani frequentatori di questi luoghi chiamati centri sociali, come il Leoncavallo, dei tuoi prodotti. Spiega un po'. Sì, questo è grazie a voi amici del Folletto di Bettegrasso, che tramite un'iniziativa che è stato coinvolto anche dall'azienda agricola agrituristica Caremma, che abbiamo fatto lì a Bettegrasso molti anni fa. Poi piano piano siamo fatti conoscere anche negli altri centri sociali. E questo non è tanto dire, vabbè, anche giustamente che il prezzo è equo e secondo me molto bilanciato sotto il punto di vista anche del rapporto qualità-prezzo, ma anche perché c'è la filosofia che sposa il territorio, che sposa l'economia locale, l'eticità dei prodotti, presumo che sia questo, poi sono i cosiddetti utilizzatori che danno la loro sentenza e dire sì, è buono un prodotto, è etico ambientalmente, socialmente ed economicamente. Presumo che sia questo quello che ha fatto nascere queste collaborazioni sempre di più, insomma, anche la cucina del Leo fa andare moltissimo i nostri prodotti. No, infatti io rispetto a questa cosa qua, cioè, è una delle più grosse soddisfazioni che ho avuto in questi anni frequentando e attraversando la Terra Trema a Leoncavallo, è vedere il lavoro che è stato fatto in cucina, nel senso che comunque all'oggi quella cucina ormai le materie prime le prende dai produttori che attraversano la Terra Trema, quindi è una cosa bella, diciamo, per i milanesi, per i consumatori, per il Leoncavallo, ma immagino che sia anche significativa per i produttori, insomma. Sì, no, ma difatti, ma tenendo conto che anche questo ha dato la spinta ad un'altra iniziativa, no? Certo, perché piano piano questo discorso qui della Terra Trema si è evoluto un po' di più anche nell'opinione pubblica, che magari non frequenta i centri sociali, ma però comunque si è domandata, no? Come mai questi prendono questi prodotti? Certo. No? E allora si è nato un attimino di sempre più discussione sul territorio. Forse perché siamo sporchi, brutti e cattivi al posto di buoni, giusti, e com'è che dicono quegli altri? No? Buono, no, non mi ricordo neppure io, comunque buono e bello, giusto. Ma no, comunque noi c'è sempre più attenzione verso l'alimentazione corretta. Questo è positivo, insomma. Dobbiamo arrivare sempre di più, ma anche perché dobbiamo cercare di ritornare sulle coltivazioni, sugli alimenti del territorio, cioè il bioprodotto della bioterritorialità, perché altrimenti nascono sempre più intolleranze, sempre più allergie, non c'è niente da fare, no? Con la globalizzazione che ci hanno fatto passare come la mamma di tutti i beni, no? Insomma, che doveva essere fatto decenni fa, hanno cosa fatto? Contribuito ad aumentare notevolmente. Sandro, un minuto, che mi interessa questa roba qua che dicevi, spiega bene che bio non è la certificazione bio, ma è qualcosa di diverso. È qualcosa di diverso. Allora, innanzitutto sicuramente un minuto, perché sennò poi il fatto di avere dei prodotti biologici, per cui senza utilizzo di prodotti chimici di sintesi, è una cosa positiva. Non è che non si usano dei prodotti chimici, sono prodotti derivati dalla chimica piuttosto dal livello naturale di biotossi. Però il problema è proprio di cercare di evitare più possibile manipolazione, sempre di cercare di evitare prodotti che arrivano, è più possibile adesso mangiare una papaya va benissimo, però basare un'alimentazione su dei prodotti che non sono nostri, come nostra nostra progenia, no? Comporta delle intolleranze, perché il nostro corpo in migliaia di anni non si è mai abituato a mangiare la papaya, in questi ultimi 200 anni che ci stanno facendo mangiare la papaya, ma pochissime generazioni, per cui il nostro corpo non si è adattato. Invece le nostre coltivazioni, ci sono tantissimi fattori, anche magnetiche, bioelettriche, che noi non riusciamo a capirne, no? Sandro, per capirle, io invito tutti a venire alla Terra Trema. Noi ci vediamo venerdì mattina, tra pochissimo. Okay. Benissimo, grazie mille della chiamata. Grande, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, a presto. Saluto tutti i tuoi. Ciao, ciao. Grazie. Questo era un esempio di produttore della Terra Trema che volevamo anche sottolineare il fatto che non sia semplicemente un qualcosa legato al vino, la Terra Trema in particolare, poi in qualche modo è una anche delle cose più importanti, però è proprio la produzione, è proprio chi fa che conta all'interno di questo progetto, per cui diciamo che è stato un ottimo esempio, perfetto. E cos'altro dire? Niente, facciamo partire un pezzo dei Bellini che suoneranno sabato sera. Prego, Fra. tutti, bentornati a Router, router.radio@gmail.com per scriverci, router-radio.blogspot.com per riascoltare i podcast delle puntate. Questa sera abbiamo parlato con i ragazzi della Terra Trema e adesso abbiamo una telefonica per la presentazione di un'altra serata che purtroppo è tutti gli anni in concomitanza, infatti io mi mangio sempre le mani. Andrea, abbiamo Andrea al telefono di Agenzia X che ci parla di Slam X. Andrea, ci sei? Sì, ci sono, ciao. Ciao. Bene, dunque, cominciamo dal principio per ricordarlo, anche se ogni anno abbiamo il piacere di sentirci prima di Slam X. Che cos'è Agenzia X? Chi sei tu? Sì, allora, no, prima di tutto volevo dire che Slam X, sì, è vero che si sovrappone parzialmente la Terra Trema, perché è sabato 26 novembre, però è anche vero che la Terra Trema è venerdì, sabato e domenica. No, ma soprattutto la Terra Trema in realtà ha degli orari che permettono, sì, di fare entrambe le cose. Entrambe quest'anno le effettivamente cose ha senso, infatti io invito a fare tutto, cioè esatto, è proprio il weekend, uno dei weekend anch'io più ricchi tutto di Milano. Esatto, noi faremo tutto, quindi fatelo anche voi perché ne vale la pena in entrambi i casi. Bene. Allora, tornando con ordine, Agenzia X, quasi, Agenzia X è una casa editrice di Milano, che ha base a Milano, il sito è www.agenziax.it, una piccola casa editrice che si occupa di underground, controculture, saggistica e narrativa particolare, e X sta per idea per la condivisione dei saperi, quindi questo per capire più o meno. Perfetto. Siamo noi, poi potete trovare un po' i nostri libri sul nostro sito, anche scaricabili in Creative Commons e così via. E io faccio parte di Agenzia X e insieme a Marco Filopat diciamo organizzo questo festival che si tiene ogni anno in Conchetta, cioè nel centro sociale Cox 18, in via Conchetta 18 a Milano. E cos'è Slam X? Slam X è una serata, quest'anno una serata, gli altri anni due serate, però quest'anno sarà semplicemente sabato 26 novembre, che fa una specie di crossover tra le arti, nel senso che parte dall'idea di essere un festival letterario, perché coinvolge molti scrittori, però mischia le carte con musicisti e altri artisti. Quest'anno abbiamo anche dei disegnatori e usa la formula parzialmente presa dallo slam poetry, cioè di fare degli interventi molto veloci, anche se non ci sono sfide tra i partecipanti. Certo. Quindi saliranno sul palco del Conchetta una ventina tra scrittori, musicisti e disegnatori, a partire dalle 21, sempre di sabato 26 novembre, fino alle 2:30 di notte, quindi insomma abbiamo preso un festival letterario, l'abbiamo tolto dal contesto della sede delle 5. Certo, abbiamo, li avete messo un DJ dietro? Sì, costringiamo appunto gli scrittori a salire su un palco, no, a uscire magari dalla loro dimensione più autoreferenziale e magari, scusa, cioè più che autoreferenziale, magari più schiva, no, che può essere quella di rappresentazione al massimo in libreria, e a condividere il palco con musicisti e DJ, appunto perché tra una lettura e l'altra, performance e l'altra, che durano tutte 10 minuti, c'è un DJ che mette appunto uno o due brani, giusto per decomprimere un attimo, per darci il tempo del cambio palco, però le performance sono veramente serrate, per cui invito tutti a guardare sempre sul sito di prima, www.agenziax.it, il programma, e a rispettare gli orari, cioè gli orari tenderemo a rispettarli, perché sennò finiamo alle 5 del mattino. Perfetto. Non e appunto, qual è la frase dell'anno? Ah sì, certo, ogni anno abbiamo un sottotitolo diverso che però ha sempre in comune la parola rivoluzione, e quest'anno il sottotitolo è scrivere rivoluzione a tutti i costi, e diciamo che ci sembrava interessante appunto il fatto che alla prima edizione, quella del 2009, mettere nel sottotitolo la parola rivoluzione era anche qualcosa di abbastanza provocatorio, no? Mentre quest'anno, 2011, la parola rivoluzione è praticamente ogni giorno sulle pagine dei giornali, per un motivo o per un altro. Per cui, insomma, anche quest'anno abbiamo chiesto agli scrittori di confrontarsi col tema del cambiamento e della crisi, che insomma sembra portare parecchio con sé. Insomma, ci sono, vediamo tutti i giorni sconvolgimenti incredibili, cioè oggi stesso penso all'Egitto piuttosto che la situazione europea dell'Italia, della Grecia, insomma di certo c'è molto da fare, e c'è molto anche per quanto riguarda la fruizione della cultura dal vivo, che secondo noi è un territorio fondamentale, no? Anche in questa nostra città, certo. In cui appunto noi provocatoriamente diciamo, dicono che il vento si è cambiato, però questo non è sicuramente sufficiente al momento, per cui chiamiamo gli scrittori, proprio i musicisti e tutti a interrogarsi su questa cosa e cercare di venire fuori da una situazione magari di isolamento e cercare proprio di farsi incontrare tutti, di mischiarsi con il pubblico senza creare un evento che sia soltanto per gli addetti ai lavori, ecco. Certo. Bene, ricordiamo, scusami allora, la data sabato 26 novembre alle 21, Cox 18, Slam X, ricorda ancora una volta il vostro sito. Sì, www.agenziax.it e... se c'è tempo ti posso anche dire chi partecipa. Dimmi chi partecipa. Siamo messi... allora, scrittori, disegnatori, DJ, tutti. Tutti, allora scrittori, Ivan Carozzi, Cristiano Cavina, Paolo Colagrande, Giuseppe Culicchia, Gabriella Curuvilla, Chiara Moscardelli, Paolo Pasi, Marco Rossari, Stefano Rovatti, Marcello Simoni, Andrea Tarabbia, Chiara Zocchi. Musicisti, Bonno degli Assalti Frontali, Conchino degli ex degli Arpioni, Roberto Dell'Era e Sciabieri Riondo degli After Hours, Federico Fiumani di Afemma, Simona Grecce, Jonathan Mirai del Teatro degli Orrori. Disegnatori abbiamo Alessandro Baranciani e Gigi Tarantola e DJ sono Robix e Ubi Brochi. Perfetto, allora noi invitiamo ad andare anche a questa serata, appunto ripetiamo è un weekend abbastanza intenso ma si può fare tutto. E Andre, se non hai niente da aggiungere ti saluto. No, quindi aspetto sabato, prima ci vediamo per le scorte di vino e poi dopo in conchetta. Tutti belli gonfi ad ascoltare le parole della conchetta, cioè le parole della conchetta, vabbè. Le parole che risuoneranno in conchetta in questo senso, vabbè, mi sono intorcigliata come al solito. E allora grazie di avercelo raccontato anche quest'anno, perché ogni anno grazie lo facciamo. E alla prossima, ci vediamo sabato comunque. A presto. Ciao. Ciao. E torniamo in sala sempre a Router con Kenny, il magico speaker e la Fra. Mettiamo un pezzo? Sì, oggi puntata basata sui centri sociali. Per forza, perché insomma qualcosa dovremmo pur fare. No, tra le altre cose salutiamo anche i compagni di Torchiera, che stanotte purtroppo gli è andato a fuoco lo spazio sotterraneo della sala prove, per cui un abbraccio e solidarietà insomma ai compagni di Torchiera che... questo brutto momento, insomma. E niente, torniamo con un pezzo. Fra, vuoi aggiungere qualcosa? Di. No, semplicemente la manina si muoveva da sola. No, dicevo, mandiamo un pezzo e poi torniamo a salutarci tutti in allegria e riascoltiamo lo spot della Terra Trema, che ricordiamo è questo, appunto, questo weekend al Leoncavallo di Milano. Cosa ascoltiamo? Ascoltiamo Egle Sommacal con Gli avamposti sono minati. Giorni nostri. Un movimento sempre più crescente di agricoltori sta per raggiungere la metropoli. Lungo il percorso risuonano le grida di battaglia. Lo scontro è iniziato, stiamo pronti a coglierne i frutti. In alto i calici, partecipiamo alla lotta. 25, 26, 27 novembre, la terra trema. La fiera dell'enogastronomia eversiva per la quinta edizione torna al Leoncavallo di Milano. Vini e vignaioli autentici, degustazioni guidate, cena filiera zero, concerti. Venerdì sabato dalle 15 alle 22, domenica dalle 13 alle 20. laterratrema.org. Benissimo, torniamo in linea e in onda con Router, sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ormai siamo arrivati anche al momento dei saluti, abbiamo presentato la Terra Trema, che siamo ancora qua in trasmissione con Suz e Paolo, che ricordiamo questo weekend a Leoncavallo di Milano, 25, 26, 27 novembre. www.laterratrema.org per andare a vedere tutto il programma, anche se durante la puntata ne abbiamo parlato abbondantemente, però se vi siete persi qualcosa potete anche andare a riascoltare il nostro podcast sia su Facebook alla pagina Router oppure alla pagina router-radio.blogspot.com. Abbiamo poi parlato di Slemix, che è sabato 26 novembre in Conchetta, Cox 18, www.agenziax.it. E i nostri contatti li abbiamo detti, dunque forse possiamo lasciarli, oltre che con la sigla, con un altro pezzo che non è assolutamente vero. E quindi niente, la settimana prossima puntata bellissima a cura degli HG, quindi B2B rubrica. E niente, salutiamo e ci sentiamo la prossima volta. E Paolo Zuzza, volete aggiungere qualcosa? No, niente, sul sito trovate l'elenco dei produttori, dei vignaioli, degli agricoltori. Che invitiamo anche ad andare a trovare, perché sì, comunque sì, hanno le loro rispettive aziende sul territorio. Ciao, ciao, ciao a tutti! Room Terror is the name of the program. And the purpose of a router is to take your connection and split it off to multiple computers.